America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti a America 24 da Washington, Mario Platero. On arrival, he called for greater freedom for the church. Papa Francesco arriverà questo pomeriggio a Washington, ma non è soltanto il suo arrivo a destare interesse negli Stati Uniti. C'è anche l'arrivo più tardi nel pomeriggio nella West Coast a Seattle di Xi Jinping, il presidente cinese che girerà gli Stati Uniti per un paio di giorni per poi arrivare a Washington e incontrarsi con Barack Obama in un vertice venerdì. Trovo curioso, interessante, promettente che questi due personaggi così lontani fra loro, così potenti ciascuno a suo modo, arrivino in America, uno sulla costa occidentale, l'altro sulla costa orientale, per portare dei messaggi che alla fine, beh, diciamocelo, dovrebbero spingere tutti per migliorare il nostro pianeta, per migliorare il dialogo, per uscire da questi conflitti che ci stanno tormentando sotto ogni punto di vista. La cosa interessante è che Papa Francesco sarà accolto questo pomeriggio direttamente da Barack Obama. Pensate, non era mai successo che il presidente americano andasse a Andrews Air Force Base per accogliere gli ospiti stranieri. In genere gli ospiti arrivano, c'è un cerimoniale, c'è magari il segretario di Stato, c'è comunque una delegazione importante, ma mai il presidente. Dunque questo è un gesto molto molto importante. Il Papa passerà un pomeriggio piuttosto tranquillo, di riposo, in vista degli impegni molto onerosi dei prossimi giorni, perché domani mattina c'è il vertice con Barack Obama, ci saranno poi delle cerimonie religiose, dopodiché il grande discorso al Congresso giovedì mattina. Venerdì sarà a New York per parlare alle Nazioni Unite, sabato a Filadelfia per partecipare al Festival sulle Famiglie, quindi un grande incontro di tutti i religiosi americani, la comunità cattolica americana e internazionale, devo dire, per fare il punto sulla famiglia. Dunque un viaggio molto intenso quello del Papa, un viaggio molto intenso quello di Xi Jinping, perché in arrivo negli Stati Uniti il presidente cinese si incontrerà, pensate, a Seattle con 30 amministratori delegati, 15 americani, 15 cinesi, fra gli americani Tim Cook, numero uno di Apple, e Satya Nadella, capo di Microsoft, ma anche Jack Ma, che è il presidente fondatore di Alibaba, Robin Lee, che invece è il presidente e amministratore delegato di Baidu. Poi ci saranno Mary Barra di GM, Virginia Romelty di IBM, Jeff Bezos, Amazon, Walt Disney, Pepsi Cola, Boeing, Starbucks, insomma le grandi aziende americane che cercano di rafforzare il ponte con la Cina, un ponte complesso. Perché? Beh, perché la Cina è accusata da queste stesse aziende e attraverso il governo americano di compiere ogni genere di scorrettezze, dallo spionaggio industriale alla concorrenza sleale, alla censura naturalmente. L'incontro è molto importante perché poi porterà Xi Jinping a Washington e abbiamo visto che cosa è successo durante l'estate quando la Cina ha avuto quel grave setback, quel grave momento di difficoltà sul fronte economico. I mercati mondiali sono entrati in crisi, si conferma una volta di più che è molto più importante dialogare, trovare delle soluzioni comuni piuttosto che mettersi a litigare. Dunque c'è molta speranza che l'incontro fra Obama e Xi Jinping porti a qualche cosa di concreto in termini di rassicurazione per un po' di stabilità sul piano economico mondiale. Vedremo, seguiremo gli eventi qui dai microfoni di America 24. Io sono già a Washington per prepararmi proprio all'arrivo del Papa di questa sera. Ecco, in questo contesto che cosa è successo? È successo che abbiamo avuto una notizia bomba che riguarda la Volkswagen, devo dire, mi ha lasciato alquanto esterrefatto. This morning Volkswagen and its Audi subsidiary are pulling many of its diesels out of showrooms. The company's CEO is apologizing after the EPA found the automaker. Ecco, avete sentito, la televisione americana ha dato la notizia che la Volkswagen avrebbe commesso delle gravissime infrazioni per ciò che riguarda il controllo delle emissioni delle sue vetture, soprattutto delle vetture con motori a diesel. Che cosa è successo? Che nel momento in cui la Volkswagen portava le vetture per i collaudi c'erano dei meccanismi elettronici che controllavano le emissioni attraverso i tubi di scappamento per limitare le emissioni di gas tossici e i test venivano passati normalmente. Però, essendo questo un prodotto software, cosa succedeva? Che poi nel momento in cui le vetture invece venivano date ai clienti e si trovavano per strada, il programma cambiava E per garantire una migliore performance di consumo, perché avere minori emissioni comportava un maggiore consumo di carburante, non c'erano più questi controlli e dunque si truffava di fatto il governo americano, perché si diceva nel momento del test, ecco, noi facciamo una emissione X, diciamo, però poi quando le macchine erano per strada l'emissione era molto superiore. Di questo le autorità di controllo se ne sono accorte. Pensate, la multa che rischia la Volkswagen è di 18 miliardi di dollari, una multa che farebbe impallidire qualunque delle grandi banche americane che già hanno avuto anche loro multe per miliardi di dollari. Lo scandalo è forte perché potrebbe estendersi all'Europa, quindi partiranno delle inchieste europee. Il titolo è crollato in borsa quasi del 20% ieri, ma la cosa che colpisce di più è un po' questo gioco delle tre carte. Sembra impossibile, impensabile che un'azienda, un colosso delle dimensioni della Volkswagen possa fare dei trucchetti che, diciamo, non appartengono nel nostro immaginario collettivo a quella tradizione di serietà della Germania. Sentiamo come ha reagito la Casa Bianca. Well, this is obviously an enforcement action and an investigation that the EPA is responsible for carrying out. They take the responsibilities that they have to enforce the Clean Air Act very seriously. John Ernst, portavoce della Casa Bianca, ecco, anche il presidente Barack Obama si è dovuto occupare di questa cosa. Da una parte ha detto che la responsabilità di stabilire che cosa fare e di appurare effettivamente queste violazioni sia dell'Environmental Protection Agency, quindi dell'Agenzia per l'Ambiente, ma Ernst ha sottolineato, è giusto dire, che siamo molto preoccupati da quello che abbiamo visto dal punto di vista delle relazioni e delle inchieste sulla condotta della Volkswagen. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Maria24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. È una giornata molto particolare quella di oggi. Da una parte questo scandalo e questo grande peccato della Volkswagen, l'arrivo del Papa, l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping. L'idea è che dalle cose negative possano nascere delle cose buone, dunque ispiriamoci a Bob Marley, Redemption Song, la canzone della redenzione, di modo che anche la Volkswagen possa trovare una sua via di uscita. Old pirates, yes they rabbi, sold I to the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Da Washington è tutto. Mario Pratero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.